Giovedì 12 dicembre del 2013, 87.9, la modulazione di frequenza, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa dal 1977, libera da padroni e pubblicità, la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Potete contribuire a farla vivere, ad esempio sottoscrivendo sul numero di conto corrente postale 6180-4001 da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56-00185 Roma, oppure consultando il sito internet della radio ondarossa.info, la voce sulla home page, alla voce sostieni troverete le modalità PayPal. Siamo a visionare l'appuntamento con il cinema il giovedì dalle 14 alle 15, quest'oggi con un po' di anticipo visto il numero degli ospiti presenti quest'oggi. Ascolteremo in ordine sparso PIF, Pierfrancesco Di Liberto, regista della Mafia uccide solo d'estate, Uberto Pasolini, regista di Still Life in uscita oggi, Paolo Minuto di Cineclub Indipendente Distribuzione sul film Qui e Là, anche questo in uscita oggi, Andrea Romeo, fondatore di I Wonder Picture, su Pussy Riot e Punk Prayer, anche questo in uscita oggi, Giovanni Cioni, regista del documentario Per Ulisse, vincitore della 54esima edizione del Festival dei Popoli, e poi Dagmawi Himer, regista del documentario Va Pensiero, Storie Ambulanti, che sarà programmato a Firenze domani 13 dicembre, Diego Botta de Il Chino sul film Clip in uscita in sala sempre domani 13 dicembre e Francesco Conversano con regista del doc Muri, ma sentiremo anche altre ospiti non inserite in scaletta ma decise all'ultimo momento. Comunque, per le informazioni la scaletta la trovate sul sito internet della radio, la voce trasmissioni visionari, anche sulla nostra pagina Facebook. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. diamo inizio ai collegamenti. È con noi Livia Parisi per parlare della rassegna Palestina per principianti, che sarà in programmazione in diversi appuntamenti nel corso della stagione al Cineclub de Tour. Livia, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Ben ritrovati a tutti, un saluto a chi ci ascolta. Dici un po' di questa nuova edizione, intanto poi quali sono le sue, partendo dalle sue caratteristiche, ecco. Certo, dunque questa edizione innanzitutto nasce sulla base del grande successo che ha avuto l'edizione precedente lo scorso anno, si intitola Palestina per principianti ed è indirizzata proprio a tutti coloro che intendono saperne di più, a coloro che hanno già una base di conoscenza su quello che è la situazione nei territori palestinesi occupati, ma anche a chi in effetti parte proprio da zero, quindi comunque sono una serie di film e di documentari selezionati sulla base proprio di questo criterio, quello di voler fornire la maggior possibilità di conoscenza alle persone che sono in Italia. Questi film saranno filmati per l'appunto al De Tour di Via Urbana nel secondo venerdì del mese, a partire da questo, quindi da venerdì 13, saranno sempre preceduti da un ritrovo, un aperitivo conviviale intorno alle 20:30 e poi inizieranno alle ore 21. Rispetto allo scorso anno, quest'anno daremo maggiormente la precedenza a veri e propri film. L'anno scorso ci siamo concentrati in effetti più sul genere del documentario, ovviamente sono sempre film di testimonianza, sono dei film che documentano la difficilissima situazione che si trovano a vivere i palestinesi sia in Cisgiordania che a Gaza, e quindi quest'anno daremo la precedenza a questo. Il programma in realtà è ancora in via di costruzione e questo è dovuto al fatto che siamo in attesa delle liberatorie. Quello che è certo è che nei prossimi mesi proietteremo e sarà forse una delle anteprime a Roma il film Gaza, che è stato presentato di recente a Torino. Mentre per quanto riguarda la prima serata di inaugurazione, quella di venerdì 13 dicembre, la proiezione sarà quella del film Salt of the Sea. Allora, volevo chiederti intanto il titolo del primo lavoro che programmerete domani se non sbaglio, sì, il 13, e poi più o meno quale sarà il periodo di programmazione di Palestina per principianti. Da domani fino a quando, più o meno, visto che ancora siete in attesa, allora, delle liberatorie? Noi saremo come lo scorso anno con i primi 5 appuntamenti, quindi i primi 5 mesi, ovvero una volta al mese per 5 mesi, e poi, se, come speriamo, insomma, la manifestazione avrà successo, insomma, proseguiremo anche fino a giugno, come è stato poi lo scorso anno. Per quanto riguarda il film, che invece è in programmazione per venerdì, dicevo appunto Salt of the Sea, Sale di questo mare, è sostanzialmente un'opera prima di una pluripremiata regista palestinese, sostanzialmente la prima donna regista palestinese, e racconta la storia di una giovane donna originaria della Palestina, ma residente negli Stati Uniti, residente quindi all'estero come la maggior parte dei profughi palestinesi, che, come sapete, sono stati in effetti cacciati dalle loro terre. Questa donna ritorna nella sua terra d'origine alla ricerca delle radici della propria famiglia, ed è ovviamente si va a scontrare con lo stato di occupazione israeliana. Dal momento del suo arrivo, quindi, si trova immersa in una realtà che non immaginava, con tutta una serie di complicazioni, di controlli e checkpoint, di difficoltà che, insomma, chi conosce la Palestina sa bene di che cosa stiamo parlando, e che riguardano anche lei stessa, che pure ha un passaporto americano. Quindi sostanzialmente ritorna nella sua casa di origine, che nel film si trova a Jaffa, che è una parte palestinese di Tel Aviv. Sostanzialmente questo film è caratteristico di questa ondata di nuovi registi palestinesi, che hanno cominciato a produrre più o meno dal 2002, dallo scoppio della seconda intifada, che hanno un forte senso politico, ma raccontano nello specifico la storia, le situazioni e i contesti dei territori, senza lasciare molto all'immaginazione. Sostanzialmente sono molto diretti, tanto loro, così come in effetti tutti i palestinesi, registi o non registi cinematografici o di documentari, hanno tutti comunque sostanzialmente un obiettivo, no? Che poi è stato quell'obiettivo che lo stesso Edward Said, grande intellettuale arabo, aveva definito la più grande preoccupazione dei palestinesi, che è quello di rendersi visibili, e quindi di interpretare il cinema in termini politici come un'arma culturale che funge da resistenza. Questo è il senso sostanzialmente del film, ma anche del nostro parlare di questa cinematografia, sostanzialmente. Livia, per saperne di più sulla programmazione, immagino che, oltre al sito internet del Cine Club de Tour, abbiate anche un vostro sito internet. E invece no. il sito per il momento è quello del Cineclub. Quindi, per chi vuole avere maggiori informazioni, di mese in mese comunque ci saranno aggiornamenti, e poi creeremo ovviamente i vari eventi su Facebook. Ci tenevo a dire che, diciamo, questa rassegna è realizzata in collaborazione tra De Tour e la rete romana di solidarietà per la Palestina, e in particolare dal gruppo Cinema, che da anni sta cercando proprio di portare avanti questo progetto di diffusione della cinematografia palestinese, sia per far conoscere a più persone possibile, anche nelle scuole, ragazzi e bambini, quello che succede nella West Bank, ma anche in qualche modo per far conoscere a tutti che ci sono anche delle produzioni di valore, delle produzioni interessanti, e che comunque, quando si parla di Palestina, non si parla solo di guerra, però si parla anche di cinema, di talenti e di premi. Bene, Livia, io ti ringrazio, come sempre è a completa disposizione per le vostre iniziative sulla Palestina legate al Cine Club de Tour, per cui credo che ci sentiremo nuovamente nel corso della stagione. Un saluto a tutti voi. Un abbraccio. Ciao. Un abbraccio. Livia Parisi, per quanto riguarda Palestina per principianti al Cine Club de Tour, la rassegna nel corso di questa stagione. Francesco Conversano, coregista del documentario Muri, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Salve, buongiorno a tutti. Ero venuto a conoscenza di questo lavoro casualmente al Valle Occupato, Teatro Valle Occupato. Una delle occupanti lo aveva appena preso e ha detto: fammi vedere, molto interessante. E allora i muri che insomma ricoprono dei punti caldi del globo, mi sembrava veramente un lavoro interessante. Tra l'altro qualche giorno fa ho letto anche su un quotidiano, credo La Repubblica, e c'era tutto un elenco dei vari muri che attraversano i diversi stati che compongono il pianeta, e alcuni chiaramente sono più conosciuti. Allora raccontaci un po' di questo lavoro, Francesco. Dunque l'idea nasce nel 2011, e quindi l'inizio del lavoro, la preproduzione, nasce in quegli anni, diciamo 50 anni dopo la costruzione del primo muro, quello di Berlino, il muro più famoso, il paradigma, il muro dei muri, insomma. E quindi ci siamo detti: ma in questo mondo continuano a costruire ogni giorno muri, alcuni vengono abbattuti, altri vengono costruiti. Qui dipende dall'ottimismo, dal pessimismo di ognuno di noi. C'è chi vede e crede che siano meno i muri che crollano piuttosto che il contrario, quindi è una visione del mondo. E io credo che i muri sono tanti, e abbiamo detto, raccontiamone alcuni. I muri sono muri di ferro, muri di acciaio, muri di pietre, muri di sabbia, distribuiti, come dicevi, in ogni parte del mondo. Ecco, noi abbiamo parlato di due muri. Uno è un muro vero, che è la frontiera tra gli Stati Uniti, quindi l'Arizona, lo stato dell'Arizona, e il muro, questa frontiera che appunto divide il Messico dagli Stati Uniti, dalla California fino all'Arizona, arrivando fino al Texas. È una frontiera molto dura, dove passano centinaia e centinaia di persone ogni giorno, tentano di passare per raggiungere questo il paradiso, che sarebbe poi l'America, gli Stati Uniti. E quindi abbiamo cercato di raccontare questa storia veramente dura di questi migranti che, provenendo dal sud dell'America, cercano di andare al nord per cercare la loro fortuna, per cercare di migliorare la loro vita. Tra parentesi, Francesco, sì. Di questo muro si vedono dei momenti drammatici anche in un film recentemente uscito in sala, La gabbia dorata, che mi è molto piaciuto. Sì. E fa vedere veramente una situazione drammatica, tragica. Ci sono anche, certo, i cecchini a difesa, certo, di quel muro. Certo, infatti il dramma vero è che queste persone, questi poveri che cercano di cambiare la loro vita, sono vittime dei narcotrafficanti, perché attraverso, come sapete, attraverso questa frontiera passa la droga, c'è il narcotraffico, che è una delle zone più pericolose del mondo, e loro si trovano in mezzo. Dall'altra parte, come dire, c'è uno sceriffo, almeno nel nostro film Muri è raccontato questa vicenda a Phoenix di Tent City, che è un carcere per i migranti, condotto e tenuto da questo sceriffo che si chiama Joe Arpaio, e dei Minutemen, che sono dei patrioti, come dicevi, appunto, che sorvegliano la zona, per cui fanno parte di quella parte dell'America che vede questi strangers, questi come degli intrusi, come degli alieni, e quindi si pone sulla frontiera come un altro vigilante che si somma alle border patrol. Quindi diciamo che è una situazione molto molto pericolosa, e in mezzo ci sono queste vite di uomini e donne che tentano di cambiare la loro vita. Ecco, però, come dicevo, nel film ci sono due muri. Uno è questo, che è un muro vero, e l'altro è un muro che in realtà è un ponte, cioè quello che il ponte dovrebbe rappresentare, come dire, un passaggio, un'unione in un'altra parte del mondo, raccontata nel film, che è il Kosovo, quindi nei Balcani. Il muro in questo caso è un ponte che unisce, dovrebbe unire, invece divide la città di Mitrovica in Kosovo, e divide due realtà etniche, quella kosovara e quella serba. Ecco, qui si pongono altri problemi. C'è un odio religioso, etnico, atavico, che divide le due fazioni, e quindi qui viviamo in una situazione completamente diversa, che però allo stesso modo racconta come i muri sono qualcosa di invisibile, cioè esistono i muri visibili, veri, reali, certo, certo, e dei muri invisibili, e quindi, come dire, e nel film questo viene spiegato, che l'abbattimento dei muri è qualcosa che deve avvenire nella realtà vera, ma anche l'abbattimento dei muri è qualcosa che deve avvenire dentro ognuno di noi, perché è l'abbattimento dei pregiudizi, degli stereotipi. Se non abbattiamo prima i muri dentro ognuno di noi, è difficile abbattere poi i muri, quelli veri. E la storia tra i serbi e i kosovari, la storia dell'ex Jugoslavia, è proprio una storia che racconta questo, cioè come dire, come stare dalla parte degli uni o dalla parte degli altri, è veramente difficile, perché ognuno racconta una storia che sembra quella giusta, quella corretta, però poi, come dire, bisogna entrare nelle cose ed è difficile poi capire chi ha ragione, chi di due ha ragione. A proposito dei muri materiali, chiaramente agli onori della cronaca, e quelli più che saltano subito all'occhio sono quelli che citavi tu, per esempio, che separa il Messico dagli Stati Uniti, ma c'è anche quello che separa Israele dalla Palestina, che anche questo è di recentissima costruzione. Quello che mi faceva impressione sono la loro entità in generale, sono centinaia i muri nell'intero pianeta, e probabilmente a costruire queste separazioni contribuiscono anche i confini nazionali, perché poi le derive nazionaliste sono quelle che alla fine generano anche le guerre. Se pensiamo per esempio alla Marocco, nel Marocco esistono le due enclave di Ceuta e Melillo, quelle sono due parti spagnole in Marocco, anche quelle sono dei muri, dei confini, delle enclave che chiudono e separano nello stesso paese delle persone diverse. Se pensiamo al nuovo muro, appunto quello di cui si parlava qualche giorno fa sui giornali, tra la Turchia e la Grecia, è un nuovo muro che viene costruito, quello tra l'India e il Pakistan, quindi voglio dire, sono tantissimi i muri, però ritorno al discorso di prima, cioè i muri crollano, altri muri vengono eretti, quindi, come dire, qualcosa di che fa parte della storia. Sì. Francesco Muri, il tuo documentario, dove si possono avere informazioni anche riguardo a eventuali calendari di proiezione? Ecco, dunque, il film è andato in onda sulla Rai, è uscito poco nelle sale, perché sapete che in Italia la distribuzione, nonostante i documentari stiano vincendo festival importanti, non hanno ancora una diffusione e un circuito che si meriterebbero, diciamo, e quindi ha avuto una vita, diciamo, a livello sociale molto molto importante, associazioni, gruppi, è stato visto tantissimo, perché, come dire, va a toccare molto gli argomenti sociali di cui, insomma, in questo paese dal basso c'è grande interesse. A livello, per vederlo, bisognerebbe uno acquistare il DVD, che è venduto nelle librerie Coop, che è un distributore, appunto è stato il distributore di questo film, e diciamo nei prossimi mesi non ci sono proiezioni, quindi bisognerà accontentarsi o di comprarlo oppure chiedere, non so, vedere sulla Rai se lo ritrasmettono, ecco, perché in Italia la situazione è un po' questa, purtroppo. Bene, Francesco, io ti ringrazio. Riferimenti internet, ne hai dati? No, darei il sito MovieMovie, che è la società di produzione mia e di Nene Grignaffini, con la quale abbiamo fatto il film. Il sito è www.moviemovie.it. Lì potrete trovare le altre informazioni. Ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie a voi, buona giornata. Ciao. Grazie, ciao. Francesco Conversano, co-regista del documentario Muri. Allora, mentre vi ricordo i contatti per saperne di più sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni visionari, per saperne di più sulla scaletta di quest'oggi, e poi su Facebook, anche lì c'è una pagina visionari, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Dovremmo essere in collegamento con Dagmawi Himer, regista del documentario Va Pensiero, storie ambulanti, che sarà presentato dopo Roma a Firenze domani 13 dicembre per una triste e tragica ricorrenza. Doug, ben ritrovato. Grazie. Grazie Federico. Allora, intanto noi ci conosciamo da un po' perché sto seguendo il tuo lavoro fin dai primi passi, possiamo dire, giusto Doug? Sì. E beh, questo è un momento importante. Va pensiero storie ambulanti, di cosa si tratta Doug? Va pensiero storie ambulanti parla di persone... di tre personaggi senegalesi che hanno ognuno la sua caratteristica, personalità diversa, ma che ha una cosa in comune, cioè l'aggressione razzista sulla propria pelle. L'unico filo che lega questi personaggi è quello, e se non la nazionalità, che è la stessa, o il paese di provenienza. E cerca è una ricerca di raccontare il dopo aggressione, la ripresa e la voglia di rimettersi di nuovo in pista e fidarsi di quello che c'è intorno, perché tutto quello che c'era prima non è più come vivevano una volta. Quindi questa è la ricerca del film, di cercare di raccontare le persone che sono le vittime, che spesso non si sa chi sono, cosa hanno provato e così vari. Ecco, proprio sul fatto che non si sa chi siano le vittime, ti dico che nella mia trasmissione radioteatro ho ospitato ad esempio il lavoro Invisibili di e con Mohamed Ba, che è uno dei protagonisti del tuo documentario. Abbiamo trasmesso qui proprio la registrazione integrale di quello spettacolo. Raccontaci un po' di queste due storie, Doug, che poi insomma sono un esempio, una sintesi di tante altre sommerse. Allora, il film è un, come filo conduttore c'è lo spettacolo Invisibili, e Mohamed Ba come il grillo che narra, che racconta i dolori e la gioia di questo mondo. E quindi c'è Mohamed grillo e c'è Mohamed in persona, con la sua vita quotidiana e così va, e queste cose insieme, che però racconta i dolori dei suoi copaesani, di Sheikh e Mor, che hanno vissuto la stessa dramma e che però cercano anche loro di uscirne. Lui che ha trovato un modo di uscire da quella tragedia, da quell'aggressione, con i suoi spettacoli. Invece Mor e Sheikh hanno la loro famiglia, il figlio di Sheikh che è più vicino al figlio, e il suo modo di uscirne da questa brutta esperienza. Quindi il film come filo conduttore c'è lo spettacolo di Mohamed Ba. Infatti era lì che ci siamo incontrati, tra l'altro tu stavi proprio effettuando le riprese, se non sbaglio. Doug, sì. Questo titolo, Va pensiero storie ambulanti, spiegacelo un po'. Il titolo sembra... cioè io stavo facendo, mentre giravo, mi stavo incuriosendo su internet, certe dichiarazioni, cose varie, per capire meglio le aggressioni che sono stati fatti, e poi il feedback dei politici che hanno detto delle cose. E a un certo punto ho visto un inno, questo bellissimo di Giuseppe Verdi, cantato un coro leghista, e dicevo che è una bellissima musica, come è possibile che hanno beccato una bella musica così profonda. E poi mi sono incuriosito di nuovo e ho cercato su Google e ho scoperto che Giuseppe Verdi non c'entra niente con Lega, quindi ero così esaltato, contento di voler includere, voler far parte in questo racconto, perché non appartiene solo a un alla Lega, e allora questo è un patrimonio dell'Italia, quindi anche del mondo. Allora ho voluto includere sia le musiche che accompagnano il film che anche il titolo Va Pensiero, perché i testi di Va Pensiero sono veramente quello che racconto anche dell'immigrazione, della sofferenza, della violenza, quindi andava bene per quello che ho scelto. Sì. No, Doug, domani a Firenze per la ricorrenza di una strage di migranti. Sì, domani c'è la proiezione, l'anteprima a Firenze, con la presenza di Mor e Mohamed Ba in sala, e anche per ricordare, soprattutto per dare la voce alle vittime attraverso questo film, che loro restituiscono, che si riconoscono anche nel film, dal film, e quindi restituiranno quel racconto che non è stato possibile a raccoglierli, che non c'è stata questa possibilità di sentirli, e questo è il modo in cui si propone alla città di Firenze di venire a vedere il film e sentire i racconti di questi ragazzi vittime di Piazza Dalmazia e San Lorenzo. Senti Doug, per saperne di più sul tuo documentario, in rete si può andare a cercare da qualche parte? Sì, ci sono varie proiezioni e c'è il calendario su va-pensiero.org, si trovano tutte le informazioni. Benissimo, io ti abbraccio, a risentirci presto. Grazie. Doug. Grazie Federico. Ok. Ciao ciao. Doug Maui Imer, regista del documentario Va Pensiero, Pensiero, Storie Ambulanti, a Firenze domani, 13 dicembre. Con noi PIF, Pierfrancesco Di Liberto, regista del film La mafia uccide solo d'estate, in programmazione già da un paio di settimane in Italia. PIF, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Salve. Come va? Come stai? Tutto bene? Tutto bene, un po' distrutto per la promozione, ora sono a Napoli per promuovere il film, però sta andando bene, decisamente bene. Ecco, infatti volevo proprio sapere come va questa tenitura già da un paio di settimane, e insomma mi dici bene, questo è buono, anche perché te lo dico subito, insomma è un film che ho trovato positivamente spiazzante, una sorpresa, il che insomma è abbastanza una rarità nel cinema italiano di questi tempi. Allora PIF, ti dico anche un'altra cosa, non so se conoscevi la storia di questa radio, Radio Onda Rossa è una delle prime cosiddette radio libere del maggio 1977, e pensa che io poi ho anche un'altra trasmissione di radioteatro in cui facciamo gli spettacoli in diretta o mandiamo in onda registrazioni, e nel corso di questa trasmissione ho anche ospitato uno spettacolo dedicato a Peppino Impastato, e avevo saputo, vedendo lo spettacolo a teatro, che lui in una delle sue trasferte a Roma era venuto proprio a visitare Radio Onda Rossa, e poi quando è tornato in Sicilia ha fondato Radio Out, per cui c'è questo elemento, visto che insomma è una cosa molto molto bella questa, se non lo sapevo. Sì tanto se vogliamo trovare un collegamento col mio film, diciamo che io nel film prendo in giro un po' i mafiosi, lui lo faceva, prendeva in giro un po' i mafiosi, ma lo faceva quando prenderli in giro era veramente rischioso, perché poi si ritrovavi sotto casa. Io mi posso permettere di prendere in giro i mafiosi perché prima di me c'è stato Peppino Impastato. Certo. Senti PIF, per chi ancora non lo avesse visto e volesse venire a vederlo, è incuriosito, come lo racconteresti in breve? Diciamo che è un film impegnato, però dove si ride, non è pesante, quindi si ride, però poi ti racconto quello che è successo nel nostro paese, quindi cose realmente accadute, quello che la mafia, come la mafia ha segnato la mia città, la mia vita, sì, la mia vita, la vita della mia generazione. Sì, quindi sì. Cioè, ormai posso dirlo, visto le proiezioni, che appunto veramente si ride e si piange, sì, proprio, si piange molti, alla fine escono con le lacrime, però insomma, un film che finisce con una speranza. Sì, ecco, devo dire, rispetto anche alle immagini di repertorio della folla, i funerali per esempio di Falcone, è a tratti è veramente commovente, ritrova quella forza che da qualche decennio ci riporta proprio a quel periodo. E uno degli elementi, secondo me, focali che fanno risultare il film, a mio modo di vedere, riuscito, è questo ribaltamento grottesco, per cui c'è questo protagonista e bambino che ha il culto di Andreotti. Ecco, come ti è venuta in mente questa storia? Ma in realtà lo spunto è stato perché il mio produttore Mario Giannani, che ha prodotto il film, da piccolo era un appassionato di La Malfa padre, è sì, una passione che quando La Malfa è morto lui pianse a dirotto. Questa cosa ci ha incuriosito, e poi ho pensato che era un bel modo per raccontare la cronaca di quel periodo, cioè raccontare Andreotti. La cosa migliore è farlo raccontare da un bambino, perché i bambini sono senza malizia, sono puri, e poi hanno dei tempi comici meravigliosi. Quindi quando lui si innamora di Andreotti ripete tutto quello che dice Andreotti, e quindi non lo fa appunto con malizia, e sentendo quelle frasi, le frasi che dice il bambino in quel momento storico, capisci che era tutto chiaro, sì, non c'era bisogno di un indagine, un processo per capire come stanno andando le cose. Sì. Ecco, proprio a proposito di quel bambino, Piff, a mio modo, sempre a mio modo di vedere, rappresenta un po' il simbolo di un intero popolo, cioè da una parte l'innocenza, però dall'altra anche un pizzico di furbizia per la piccola menzogna per raggiungere un obiettivo, in quel caso la bambina di cui si era innamorato, sì, no? Rappresenta anche un po' per esteso proprio un popolo Beh, sì, alla fine sì, cioè quando una cosa a cui non ho pensato è effettivamente vero, nel senso che tutti sapevano il compromesso che è in atto, però si andava avanti anche perché probabilmente sul momento essere compromessi, non disimpegnarsi, ti rende la vita più facile sul momento. Alla lunga no, perché evidentemente poi questo comportamento, questo atteggiamento ti facilitava la vita nel quotidiano, però poi nel lungo periodo ci ha penalizzati, ci ha fatto vivere una vita d'inferno. Ecco, pure su questo, per quanto riguarda questo aspetto, trovo che in alcune immagini riesci a sintetizzare quel terreno sociale in cui comandava la mafia, e quando cioè la mafia, prima ancora della stagione delle stragi, la mafia praticamente non esisteva, e per cui gli omicidi erano tutti causati dovuti a gelosia e onore, sì, no? Ecco, questo è... In realtà poi era ancora più sopraffine, perché in realtà i palermitani fra di loro non negavano l'esistenza della mafia, si è sempre negati la pericolosità della mafia. Si diceva sì, c'è, non si può fare niente, però se tu non la disturbi, loro non disturbano te. Questo sì, è l'atteggiamento del palermitano. Sì, sì, sì. A questo punto ti chiedo, anche alla luce del film che hai realizzato, qual è il rapporto con la tua terra? Ma sai, come c'è come un po' quella di un genere degli italiani o di quelli del sud, che ti rendi conto che vivi su una miniera d'oro e invece sei là a chiedere l'elemosina. A Palermo, in Sicilia, tutto ciò che riusciamo a rendere eccezionale quello che negli altri paesi è normalità. Sì. Se tu fai fatica per quindi io sono del parere che, cioè, quando mi capita che un ragazzo mi dice ho 20 anni, ho la possibilità di andare a vivere in America o lavorare in America o in qualunque altra parte del mondo, gli dico vai, perché non ho il coraggio di dire rimani qua e combatti, perché la generazione prima di noi si è mangiata il paese e adesso si chiedono pure di rimanere, ma direi che anche troppo. Però se uno rimane deve combattere. Sì. E quindi io non potrei rimanere in Italia, non posso, cioè, magari non succederà niente, però non ce la faccio a stare zitto e non prendere posizione o far finta di niente, ecco. Sì. Oh, un'ultima cosa, Pif, tu vieni soprattutto dalla televisione, come mai questa decisione di approcciare al linguaggio cinematografico? Ma in realtà io volevo, prima di incominciare a fare televisione, il mio sogno era fare il cinema, lavorare come regista cinematografico. Poi ho incominciato a lavorare in televisione per guadagnare, per beccare dei soldi, insomma, perché e rimanere nel campo. Sì. E mi è andata meglio del previsto, ho cominciato come autore, poi come sono andato in video, però a un certo punto ho pensato che volevo tentare comunque il mio primo sogno, che era quello di lavorare al cinema. Mm-hmm. E diciamo che al momento ci sono riuscito, quindi il mio ideale sarebbe lavorare sia in televisione che al cinema. Quindi ce ne aspetteremo delle altre. Ma speriamo, sì, in cantiere ci sono altre cose. A marzo incomincio con la nuova serie del Testimone su MTV e poi a maggio incomincio a scrivere la nuova sceneggiatura. Bene, allora avremo magari modo di risentirci. Io ti abbraccio, ti ringrazio. Pif, a risentirci presto. Grazie a voi, grazie. Ciao. Ciao. Bene, restiamo sui film in uscita in sala, oggi giovedì 12 dicembre, lo facciamo con Umberto Pasolini, regista del film Still Life, in uscita proprio giovedì 12 dicembre. Umberto, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Benvenuto a me, veramente, grazie infinite per la vostra accoglienza. Bene, allora, tu non sei... non è un'opera prima, ti eri già cimentato con un altro lavoro, però almeno per quanto mi riguarda ti avevo conosciuto come produttore di un film come Full Monty. Allora qui il registro è tutto un altro, come lo racconteresti a chi ci ascolta questo film, Umberto? È un film sulla vita, è un film sull'importanza della vita degli altri, sull'importanza del nostro coinvolgimento nella vita degli altri e sul più difficile ancora permettere agli altri di entrare nella nostra vita. Tutto questo però con una trama che sembra dedicarsi di più all'isolamento e alla solitudine, con un personaggio principale che si dedica a ricordare le persone che sono morte da sole. Mm-mm. Io l'ho trovato anche pieno di quel sentimento che i latini definivano pietas, che oggi non è prevista per esempio nella figura del direttore dell'ufficio presso il quale lavora il protagonista, per il quale insomma il passato è passato, i morti sono morti, e invece tutto questo cozza invece con la profonda umanità del tuo protagonista. Sì, la cosa interessante è che proprio durante le riprese del film una persona che lavorava, che aveva lo stesso mestiere in un comune limitrofo di Londra dove giravamo noi, ha perso il lavoro proprio perché per ragioni fiscali, per ragioni economiche, i due comuni si erano messi insieme per risparmiare dei soldi e il risultato è che fa appunto qualsiasi possibilità di pietà in questo lavoro scompare perché per ragioni di tempi, per ragioni di approccio burocratico invece di umanitario. Mm-hmm. È proprio una una caratteristica, insomma, quella de, spesso dei tagli ai servizi, e poi le, in nome di un'efficienza, questo va, spesso va a scapito proprio dell'umanità del, di una società. Però volevo dirti anche, insomma, ho trovato che nel film sia molto anche ben rappresentata la solitudine e la disperazione urbana, e, nonostante poi nel raccontarlo tu hai detto che non è quello il punto, però insomma anche questo elemento è piuttosto presente e importante. Sì, purtroppo è una realtà sempre più vasta nelle nostre grandi città dell'Occidente, che tocca non solamente le persone più anziane, ma anche i giovani che magari si nascondono dietro l'internet e pensano di avere con questo dei veri rapporti che poi si rivelano non veri, perché i veri rapporti sono quelli faccia a faccia, i veri rapporti sono quelli dove non ci sono limiti imposti da una tastiera. La realtà è che la società moderna sta cambiando da tantissimo tempo. Le famiglie, una volta esistevano tre generazioni sotto lo stesso tetto, adesso non più, e poi ancora più triste, il senso del vicinato sta scomparendo, per cui noi non conosciamo i nostri vicini, e anche se li conosciamo non siamo coinvolti nella loro vita, non ci interessano i loro problemi, abbiamo i nostri, abbiamo la famiglia, il lavoro, l'internet, le distrazioni e poco tempo per il prossimo, e questo finisce a impoverire la nostra vita. In un certo senso io sto dicendo che anche per sole ragioni egoistiche noi dovremmo interessarci di più al prossimo, perché ci arricchisce la nostra vita. Sì. E poi possiamo arricchire anche quella degli altri, ed è questo per me è stato un po' una, non dico proprio una scoperta, ma una riscoperta personale. Il film è partito come una ricerca a una realtà sociale molto aliena alla mia di vita di privilegiato, ed è diventato però un discorso molto personale su come io mi posso sentire solo, su come io mi sento in rapporto agli altri, disponibile o non, purtroppo non abbastanza, è diventato il mio film più personale, certamente. Sì. È un film che mi ha toccato di più nella preparazione e nella costruzione. Ecco, proprio a questo proposito, Umberto, tu al di là di questo periodo di promozione qui in Italia, vivi altrove da tempo, e rispetto anche al tuo film precedente, Machan, lo stile di questo tuo film è piuttosto algido e raffinato, che mi ricorda molto la cinematografia nord europea. Ecco, come hai elaborato uno stile di questo tipo? Beh, io sono dell'idea che, poi non è mia particolarmente, ogni storia ha bisogno di un linguaggio diverso, che sia in letteratura, che sia nell'arte, nell'architettura e nel racconto cinematografico. Questo racconto aveva bisogno di un lavoro molto sotto le righe, un lavoro diciamo a volume basso, perché è una storia molto fragile, molto leggera in un certo senso, e aveva bisogno di una grammatica che rispettasse questa natura. Oltretutto raccontiamo in dettaglio la storia di un personaggio che almeno all'inizio del film vive una vita dedicata al lavoro, e nella sua vita privata è fermo da tempo, è una persona che non è aperta al mondo come poi lo diventa verso la fine del film, e per cui questa fermezza, questo stillness del titolo, The Still Life, doveva essere riflessa nell'immagine in particolare. Sì. Per cui la macchina si muove molto poco, anzi quasi niente, abbiamo cercato delle immagini simmetriche quando si poteva, abbiamo lavorato sul colore, sulla desaturazione del colore all'inizio del film in particolare, e poi soprattutto sul lavoro degli attori. Sì. I quali, prima di tutto l'attore principale, il fantastico Eddie, Eddie Marsan ha fatto un lavoro assolutamente sotto le righe, interno, sembra quasi che non reciti, poi invece colpisce, secondo me, in modo straordinario dal punto di vista emotivo, attraverso il suo personaggio. Sì, sì, sì. Bene, Umberto, io ti ringrazio. Da oggi nelle sale, in quante copie? Grazie a voi, grazie a te. Senti, in quante copie oggi esce nelle sale? Se non mi sbaglio sono 60. 60 copie. Bene. Ma mi sbaglierò di sicuro, perché ascolto una cosa e me la dimentico subito. Umberto, ti ringrazio, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie, un abbraccio a te, addio. Ciao. Umberto Pasolini, regista di Still Life, da oggi in sala. Visionari su Radio Onda Rossa il giovedì dalle 14 alle 15. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Bene, abbiamo in linea con noi per parlare di un film in uscita oggi, giovedì 12 dicembre, si tratta di Qui e Là, ne parliamo con Paolo Minuto di Cineclub Indipendente Distribuzione. Paolo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno a tutti, grazie di avermi chiamato. Posso fare una piccola correzione? Cineclub Internazionale Distribuzione. Ah, ok, sono invertite i termini, però la sostanza non cambia. Sì, no, certo, siamo indipendenti, però nel nome non c'è la parola indipendente. Ok. Allora, Qui e Là, si tratta, se non sbaglio, della vostra prima uscita per questa stagione. No, noi abbiamo fatto già, siamo usciti con The Parade a maggio e La Sacasia ad ottobre, e sono stati due film anche importanti, anche provenienti da festival come Berlino e Cannes, e questa è la nostra uscita, diciamo, natalizia. Okay. Con un film indipendente che ha vinto la settimana della critica a Cannes e che comunque parla di famiglia, di nascita, quindi si lega comunque al tema del Natale, però in modo naturalmente diverso, non ageografico, ma in modo realistico. Ecco, proprio per chi ci ascolta, come lo racconteresti in breve? Beh, è una storia di emigrazione, ma raccontata in modo originale, perché noi non vediamo il viaggio che è presente in molte storie di emigrazione, non vediamo l'arrivo nel paese di destinazione, che è anche questo un classico del racconto di emigrazione, ma vediamo il ritorno dagli Stati Uniti, cioè in questo caso il paese di emigrazione, il ritorno a casa, il ritorno in famiglia e il tentativo di riconquistare la famiglia e di rimanere in famiglia attraverso la creazione di un gruppo musicale che dovrebbe dare sostentamento al proprio lavoro, alla propria vita, per poter rimanere poi presso la propria famiglia in Messico, in un villaggio Copa dello Stato del Guerrero. Ecco, quindi noi vediamo questi tentativi di riconquistare la famiglia e di riconquistarsi la capacità di rimanere e produrre reddito proprio a casa, nel suo villaggio, con l'amore anche dei suoi familiari, ma anche degli amici. Ecco, questa è un po' la storia. Sì. Del film, con degli sviluppi che ovviamente poi il pubblico, certo, deve vedere al cinema, non li racconto. Certo, ecco. Paolo, ecco, quello che fa, che salta agli occhi è la difficoltà nel tornare, sostanzialmente la vita non cambia anche rispetto ai soldi che uno è riuscito a mettere da parte all'estero, le difficoltà comunque permangono anche una volta tornati. Sì, le difficoltà permangono, ma la cosa che mi sembra interessante è il tentativo di superare queste difficoltà non attraverso un lavoro classico, ma attraverso il tentativo di far funzionare un gruppo musicale. E questo è molto interessante perché è originale, con musica latinoamericana naturalmente, eccetera, però questo è originale. Ovviamente difficoltà ci sono, perché altrimenti non ci sarebbero state non ci sarebbero stati i motivi e le cause per partire. Certo. Però la cosa interessante è che le difficoltà sono mitigate dal fatto che l'amore della famiglia, cioè la moglie, le figlie, siano qualcosa che effettivamente sono una mancanza quando quando si emigra, e quindi questo lo spinge comunque a volersi radicare, cioè uno stimolo in più per volersi radicare nel proprio villaggio. Quindi il tentativo, diciamo, il pubblico lo segue anche un po' facendo il tifo, diciamo, se vogliamo usare un termine calcistico sportivo, per lui, perché ci riesca. A parte che è bello cercare di mettersi un gruppo musicale per vivere, ma perché insomma uno se no potrebbe fare l'impiegato, o come fa lui, cercare di lavorare nei campi, perché fa anche questo tentativo, lavorare come muratore. Però il fatto di voler farlo con l'arte, con la musica, è anche abbastanza interessante. Sì, sì, sì. Una cosa che colpisce anche uno stile che sembra molto documentaristico, Paolo. Ecco, volevo chiederti come siete venuti a conoscenza di questo lavoro e poi come mai avete deciso di distribuirlo in Italia. Sì, beh, lo stile ha nelle inquadrature e nel seguire i personaggi ha un richiamo al documentarismo, ma in che senso? Nel senso che Pedro, che vediamo nel film, è il vero Pedro, e quindi il regista ha seguito Pedro dagli Stati Uniti fino in Messico, ha vissuto lì per mesi e ha seguito la sua vita e gli ha fatto interpretare delle parti della sua vita. Diciamo che nella realtà Pedro è ancora lì e quindi a Copa, il vero Pedro, poi la moglie, la vera moglie, e quindi insomma questo dà un tocco di documentarismo, che potremmo dire un mimetismo anche interessante, come fanno a volte anche i Dardenne, no? I Dardenne hanno anche questo stile che è apparentemente documentaristico, ma in realtà è tutto scritto, ovviamente, il film, però c'ha questo taglio documentaristico. Io l'ho visto a Cannes la settimana della critica, dove ha vinto, e quindi è un contesto abbastanza importante, interessante. Poi il film ha vinto molti premi in giro per il mondo, anche quest'anno al Festival di Cartagena in Colombia, insomma, quindi ancora, diciamo, dopo un anno di vita il film sta ancora ottenendo successo, e quindi mi sembrava importante, perché un film che mi ha emozionato, e quindi noi abbiamo come linea comunque di avere dei film che abbiano anche la capacità di emozionare, perché comunque qualcosa deve rimanere allo spettatore quando guarda, perché è vero che ci sono film interessanti anche senza emozioni, però per la distribuzione è importante che ci sia anche un impatto sul pubblico, ecco. Ora, raccontaci anche un po' la realtà di Cineclub Distribuzione a questo punto. Sì, ecco, come dicevo, abbiamo portato The Parade, che è una commedia sull'omofobia, che ha vinto a Berlino. Poi La Sacasas, che è il film che aveva vinto la settimana della critica di Cannes, La Camera d'Oro l'anno prima di Qui e Là, e poi Qui e Là, e abbiamo in prospettiva l'uscita del documentario sulla rivoluzione tunisina, che era stato selezionato a Venezia, e poi un film di Panorama di Berlino sulla violenza domestica sulla donna, proprio in prossimità dell'8 marzo. Questa è una linea che noi abbiamo scelto, cioè una linea di film che abbiano avuto un rilievo in festival importanti, perché comunque una certa notorietà serve, diciamo la verità, senza ipocrisia, però anche ci interessa che colpiscano lo spettatore, proprio per colpire i sentimenti, l'emozione dello spettatore, che per noi almeno deve ridere, piangere, insomma comunque un'emozione, cerchiamo di mantenere anche la versione originale, cioè credo che la versione originale dei film sia più emozionante della versione doppiata. Sì, e quindi noi abbiamo anche questo come linea, e fino adesso il riscontro del pubblico è stato ottimo, direi, per cui abbiamo intenzione di continuare, di crescere, e naturalmente a noi farebbe piacere, se cresciamo, di poter dare anche supporto ad alcuni film che invece hanno meno notorietà, ma magari meritano anche di essere sostenuti. Paolo, in quante copie uscirete con questo Qui e Là? Dunque, partiamo con 8 sale questa settimana, che è un tipo di partenza un po' classico, ormai molte distribuzioni indipendenti fanno così, speriamo di avere una buona media e poi aumentare il numero delle sale, anche se già ci sono delle città che sono prenotate per la settimana prossima, come Firenze e Pisa, probabilmente Padova, Agrigento, insomma, quindi comunque ci sono già delle uscite previste anche per la seconda settimana in aggiunta a queste, ma in ogni caso se il film avrà un buon risultato potrà uscire in molte più sale. Questo ci farebbe piacere, perché è un modo di vedere un film a Natale alternativo rispetto al classico cinepanettone, per il quale però io vorrei esprimere una nota di rispetto, perché comunque l'economia anche dell'industria cinematografica si serve giustamente anche di questo tipo di incassi, per cui bisogna comunque rispettarli. Senti Paolo, i riferimenti internet di Cineclub Distribuzione? Dunque, classico www.cineclubinternazionale.eu. Poi siamo anche su Facebook, ci sono pagine Facebook sia dei film che della distribuzione, c'è anche un profilo Facebook, su Twitter, per cui comunque abbiamo un canale YouTube con i nostri trailer, su Google Plus, insomma, quindi ci trovate, ma andando sul sito ci sono le iconcine con i collegamenti ai vari social, per cui insomma potete trovarci facilmente. Bene, allora io ti ringrazio, un abbraccio, a risentirci per le prossime novità. Senz'altro, grazie a voi. Ciao Paolo. Buona giornata e buon cinema. Ciao. Grazie, ciao. Paolo Minuto di Cineclub Distribuzione sul film Qui e Là, in uscita in sala oggi giovedì 12 dicembre. Torniamo ora a parlare del Festival dei Popoli, 54esima edizione, perché il vincitore è stato il documentario Per Ulisse, e allora abbiamo in collegamento con noi Giovanni Cioni. Ben ritrovato Giovanni. Grazie mille, grazie di ospitarmi. Ci eravamo sentiti per un tuo lavoro precedente, raccontaci un po' di questo Per Ulisse, Giovanni. Ma Per Ulisse potrei dire che è un canto polifonico di tante voci che ho raccolto nel corso di questi 6 anni che ho passato in un centro di socializzazione a Firenze che si chiama il Ponte Rosso. All'inizio ero stato invitato per fare delle interviste, poi ho deciso di fare un film. Ma che non fosse un film su di loro, ma che fosse un film con loro, che nascesse dai racconti, da delle idee che si potessero inventare. E ho proposto la storia, e ho proposto di lavorare su Ulisse, perché Ulisse è colui che è scomparso, di cui non si hanno più notizie, di cui si pensa che sia morto, che affronta mostri e intemperie per sopravvivere, che fa un viaggio nel paese dei morti e che poi quando torna non si fa riconoscere, cioè tra tutti questi elementi che parlavano alle persone del film, che sono persone che hanno conosciuto molte difficoltà nell'esistenza, alcuni anche molto gravi, e che stanno tornando, insomma. Raccontaci un po' anche delle modalità di lavoro, come hai deciso di strutturarlo il documentario, si basa su interviste, su momenti di vita quotidiano, dici un po'. Sì, c'è un po' tutto questo. Diciamo che l'ho strutturato in realtà sull'Odissea stessa. Sì. Che mi dava dei punti di riferimento come una mappa, no? Nel senso in cui l'Odissea, la prima parte è il Ulisse scomparso, di cui non si hanno più notizie, poi la seconda parte inizia con il naufragio di Ulisse che viene raccolto sull'isola dei Feaci, non si sa che è lui, e lui comincia a raccontare la sua storia durante un banchetto, e la terza parte è il ritorno. Io avevo cominciato con delle interviste più classiche all'inizio, fino a che, parlando di Ulisse, non è venuta fuori una storia che mi aveva proposto Silvia, che è uno dei protagonisti del film, di Ulisse a San Salvi. San Salvi è l'ex ospedale psichiatrico di Firenze, e siamo andati lì per un sopralluogo. In realtà non avevo necessariamente intenzione di filmare, avevo la telecamera, ma invece è nata una scena che ha dato lo spunto poi per il resto del film. Questa scena l'ho montata e poi l'ho mostrata agli altri e poi da lì sono nate altre idee, perché si capisse tutti che cosa, verso dove si sarebbe orientato il film, insomma, perché è molto complicato, no, dire sì, faccio un film qui con voi. Però non voglio farvi delle interviste, infatti io non chiedevo niente non ho chiesto niente delle vicissitudini che ha portato chi in carcere, chi a trovarsi nella tossicodipendenza, chi a passare periodi di trattamento psichiatrico, chi a trovarsi per strada come molti di loro. Io non chiedevo niente, non volevo interrogare, volevo che il film fosse invece un qualcosa di vissuto insieme a queste persone che un po' in un certo senso compongono anche quasi per me quasi una famiglia. Mm-hmm. Ecco, quali sono le spinte verso l'esterno, verso te, in questo caso verso te che comunque hai realizzato questo lavoro, e da parte di chi viene da queste esperienze limite? E poi volevo chiederti anche se si sono riconosciuti in questo lavoro che hai realizzato. Penso di sì, penso che la grande soddisfazione fosse anche di arrivare a un lavoro che fosse finito e che venga riconosciuto da fuori, cioè nel senso il fatto che il film abbia circolato in vari festival internazionali, che ora sia stato proiettato al Festival dei Popoli e che al Festival dei Popoli vinca due premi, tra cui il concorso internazionale, e che questa notizia sia pubblicata su tutti i giornali della città, è un qualcosa che è come dire, ecco, c'è un risultato di qualcosa che abbiamo fatto che è raggiunto, e questo penso che fosse importante, come penso fosse importante che il film approdasse appunto in questa sala di Firenze che era l'Odeon. Sì. Dove si è svolto il Festival dei Popoli, erano tutti, gran parte, tutti no, perché alcuni non c'erano, di alcune persone ho perso le tracce, però gran parte dei protagonisti erano presenti in sala alla prima proiezione del Festival. Mm. Per me è stato anche poter fare il film solo per poi poterli fare salutare il pubblico dal palco era per me anche una cosa molto importante. Sembra retorico, ma non lo è per chi lo vive. Sì. Bene, che ne sarà adesso di questo lavoro, Giovanni? Ci sarà possibilità di vederlo in sala? C'è in programma una distribuzione? C'è intanto un sito internet per saperne di più? Sì, cioè, sul mio sito internet www.giovannicioni.org ci sono via via tutte le informazioni sulla circolazione del film. No, per ora sono previsti dei festival in Italia e in Francia, però io ho previsto una distribuzione in sala. Cioè di cercare di far circuitare il film, perché penso anche che sia il momento buono per il cosiddetto cinema del reale, che per raggiungere il pubblico, cioè siamo in un momento che dopo Sacro Gra, dopo Tir, questi film non vengono più considerati come una categoria di documentari, no? Ma sì, vengono considerati come quello che sono, cioè cinema. E in quanto cinema raccontano una storia e ti devono coinvolgere. Dunque l'idea è di fare qualcosa quanto prima di uscirlo in sala. Poi c'è un'altra cosa, è che comunque uno dei due premi che il film ha ottenuto al Festival dei Popoli era il premio Cinema Italiano di CG Home Video, che appunto consiste nell'edizione e distribuzione del DVD del film. Dunque, in un modo o nell'altro, il film potrà essere, ho visto su grande schermo, che è sempre più bello, e comunque nei mesi a venire si troverà anche in distribuzione. Bene, allora Giovanni, ci risentiamo per le prossime novità. Io ti abbraccio, è stato un piacere anche questa volta. A presto, mille. Giovanni. Volevo approfittarne per salutare qui su queste onde comunque la persona che mi ha invitato e che mi ha accompagnato e anche ispirato nel film, che è Stefano Sarri, che è il fondatore e l'animatore del Ponte Rosso, che è una grandissima persona. Bene, allora a presto Giovanni, ciao. A presto. Ciao ciao, ciao. Giovanni Cioni, regista del documentario Per Ulisse, vincitore della 54esima edizione del Festival dei Popoli a Firenze. Andrea Romeo con noi, fondatore di I Wonder Pictures, per parlare del documentario Pussy Riot, A Punk Prayer, che è in uscita in sala oggi giovedì 12 dicembre. Andrea, ben ritrovato. Grazie, è un piacere essere con voi a Radio Onda Rossa ed è un piacere presentare oggi il documentario sulle Pussy Riot in una giornata in cui appunto dalla Russia continuano ad arrivare notizie sconcertanti. Di fatto il processo farsa alle Pussy Riot è stato in qualche modo rivelato nella sua assurdità, e solo che queste ragazze sono ancora in carcere, due delle protagoniste della clamorosa contestazione a Putin e al legame con la Chiesa ortodossa, appunto sono in carcere a Mosca, una invece, la Tolokonnikova, la leader delle Pussy Riot, è stata trasferita in Siberia, non si hanno notizie. L'ultima comunicazione, l'ultimo carteggio era quello con il filosofo europeo Slavoj Žižek, e di fatto non si riescono ad avere rassicurazioni sullo stato di salute della Tolokonnikova. Ecco Andrea, per chi ci ascolta ricordiamo brevemente, anche se ormai nota, la vicenda Pussy Riot e incarcerazione relativa, e poi anche di come ne parla il documentario. Ma sì, ovviamente la vicenda anche per me è nota, perché ho visto e ho selezionato per Biography in Festival e poi voluto nelle sale italiane il film, pochissimo si è potuto apprendere nelle tante agenzie della stampa internazionale sulla vicenda delle Pussy Riot, che ha visto in questi anni poi per la loro liberazione la partecipazione di intellettuali, artisti mondiali e anche leader politici che hanno preso posizione contro quella che risulta essere una carcerazione politica. Di fatto le Pussy Riot sono un gruppo artistico russo attivo da molti anni, quando decidono quasi due anni e mezzo fa di realizzare una flash mob, una performance, un disturbo, diciamo, realizzando un concerto punk all'interno della cattedrale ortodossa di Mosca. Stiamo parlando ovviamente di un universo lontanissimo da noi, e in cui, e il film lo racconta molto bene, in qualche modo anche l'atteggiamento patriarcale e molto molto misogeno della Chiesa ortodossa moscovita appunto viene contestato dalle Pussy Riot, che inscenano un concerto punk sull'altare della Chiesa. Ovviamente qualcosa di molto provocatorio, il tutto dura circa 25 secondi, le ragazze vengono bloccate, si riconoscono, tutte le abbiamo nella memoria per questi passamontagna colorati che gli garantiscono l'anonimato, e che sono passamontagne fatte all'uncinetto di colori accesissimi che sono diventati poi il loro simbolo. Inscenano questo concerto punk che in realtà appunto dura poche manciate di secondi, ma questo le porta poi ad una vicenda di carcerazione e di processo che in qualche modo dal mio punto di vista poteva restare anche interessante per la loro liberazione, ma a sé. La cosa molto bella è che il film approfitta diciamo di queste tre storie di vita, di queste tre protagoniste per raccontare poi la Russia degli ultimi 30 anni, per raccontare anche la scena artistica russa e il loro impegno come artiste anche molto prima di questo avvenimento che le ha portate poi alla carcerazione. E si scopre non solo un gruppo artistico provocatorio e straordinario nelle sue performance, non ultima memorabile quest'orgia nel Museo di Scienze Naturali, anche questa è un'intuizione molto graffiante, nel Museo di Scienze Naturali di Mosca. Considerate che appunto di questa performance, per esempio, si parla con il padre della Solokolnikova, intellettuale in qualche modo disorganico al regime sovietico, e il documentario è molto raffinato, molto graffiante, perché chiaramente il padre spiega anche il disagio di vedere la propria figlia impegnata in un'orgia all'interno di un museo pubblico, con la gente che fotografa e con gli avventori scioccati dall'avvenimento. Al contempo restituisce tutta la necessità di questi tagli sulla tela, di queste azioni artistiche che siano anche graffianti e provocatorie, in un continuum, diciamo, solidità della comunicazione di regime, che in qualche modo loro come artiste sentono di dover rompere, di dover graffiare. Oh, la cosa interessante, Andrea, direi anche il punto cruciale è che esce fuori sia nel processo che anche nel documentario, è che quell'azione non fu una provocazione per la provocazione, autocompiaciuta e dissacrante e blasfema quanto si vuole, ma era un dito puntato contro il legame stretto che c'è tra il regime russo e la Chiesa ortodossa. È una cosa che in una democrazia, che, se così vogliamo chiamarla, è inconcepibile. Ma sì, c'è evidentemente un blocco solido di conservazione che poi è anche funzionale a un controllo fortissimo del potere in una nazione gigantesca, in una delle rimaste superpotenze mondiali, di cui si parla ancora poco, ma che in qualche modo una generazione sta cercando di contestare. E il fenomeno è simile a quello, anche se per certi versi secondo me più interessante, a quello delle femmine in Ucraina, dove adesso sì, in questi giorni proprio sta scoppiando una rivolta filo europeista. C'è questo paradosso delle rivolte anti-europeiste in Europa e di quelle filo-europeiste in Ucraina, però in qualche modo credo che sia molto interessante lo spunto di andare a vedere come la solidità e l'assolutismo di poteri intrecciati tra loro, quello religioso e quello politico, quello mediatico, siano ormai in un'epoca della comunicazione digitale e globale, orizzontale, in qualche modo scalfibili in maniera profonda, perché la vicenda e le performance delle Pussy Riot hanno girato il mondo e sono state viste da milioni di spettatori sul web di tutto il mondo, e che in qualche modo, come nella nostra contemporaneità, i poteri siano assolutamente in qualche modo soverchianti e al contempo incapaci di impedire dei gesti di rottura e dei gesti di denudamento della falsità e degli abusi del potere stesso. In Occidente lo stesso evento di Snowden, al contrario, con un gesto altrettanto sconsiderato e provocatorio, è in qualche modo speculare a quello che nella Russia di Putin hanno generato le Pussy Riot. La cosa bella, che mi fa piacere dire anche ai radioascoltatori, è che oltre a questo e oltre a tutto questo, la storia di queste tre ragazze è veramente interessante, è un modo per leggere anche una generazione mondiale, se vogliamo, digitalizzata, in rivolta, in Italia, in Europa, in America e nel mondo intero, e poi è un bel film, che è sempre una cosa importante. Lo dico perché come dire, è così sulla cronaca di questi giorni, che, e lo è da mesi, che si potrebbe pensare che sia un film che arriva in sala adesso a Natale, con una evidente provocazione nella tradizione natalizia italiana, solo per ragioni di cronaca. No, è un film che Biografilm ha scelto, è un film candidato all'Oscar per il documentario nella shortlist dei 15 finalisti per l'Oscar del documentario, ed è un bel film, per questo, certo, ci fa piacere farlo vedere al pubblico italiano. Ecco, in chiusura, Andrea, a questo punto parliamo del progetto I Wonder Pictures e poi sul numero di sale in cui, il numero di copie in cui uscirà Pussy Riot. Ma guarda, le copie non hanno più senso perché è tutto digitale, quindi le copie girano e si muovono. Le sale ne hanno invece ancora molto, gli schermi, perché ovviamente è complesso ed è una bella avventura anche quella di trovare schermi per documentari, e per documentari di qualità in questo momento. La verità è che se i Wonder Pictures, prima con Searching for Sugarman, poi con The Act of Killing, adesso da qualche settimana con il film di Roberto Minervini, Stop the Pounding Heart, reduce dai successi al Torino Film Festival e al Milano Film Festival, sta trovando le sale per questo cinema, è perché c'è un pubblico, che probabilmente da anni, se non da mesi, si nutre sul web in altro modo di cinema documentario di qualità, di grandi storie, di film che, per dirlo al grande pubblico, appunto, non sono documentari come uno li immagina tradizionalmente, ma sono squarci sulla realtà, avvincenti, nel caso di Sugarman come un thriller, e che arrivano finalmente nelle sale dove trovano un pubblico. A Roma, per esempio, il film esce al Nuovo Aquila, che è un cinema che ha fatto un percorso straordinario di apertura al suo pubblico e di creazione di un pubblico per questi prodotti di intrattenimento largo, ma al contempo molto, molto impegnativi. Lo ha fatto con Sugarman, che è rimasto in sala 6 settimane e che è ancora in sala al Cinema dei Piccoli a Roma. Lo ha fatto con The Act of Killing, recentemente Oscar europeo per il documentario, e anche lui tra i candidati all'Oscar americano nel 2 marzo prossimo, ma è sostanzialmente poi una continua sequela di grandi titoli che stanno animando il cinema Aquila, e quindi come Wonder Picture siamo entusiasti dell'accoglienza anche che le sale romane dal cinema Sacher di Moretti, che ha programmato Sugarman, al Nuovo Aquila, appunto, al cinema che ha programmato invece The Gatekeepers, e adesso speriamo, appunto, che l'arrivo di Pussy Riot riapra poi anche la possibilità per i nuovi tanti titoli che stanno arrivando nei prossimi mesi. Bene, Andrea, allora ci terrai aggiornato sulle prossime uscite, sarà per noi un piacere risentirci presto, io ti abbraccio. Grazie a voi, buone visioni. Ciao. Andrea Romeo, fondatore di I Wonder Pictures, sul documentario Pussy Riot, A Punk Prayer, in uscita in sala oggi giovedì 12 dicembre. Vi rimando, per quanto riguarda la scaletta di quest'oggi, alla pagina internet del sito della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni visionari, dove trovate gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di giovedì, oggi giovedì 12 dicembre, le nostre indicazioni e suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda il piccolo schermo, la settimana sul piccolo schermo, e poi gli altri appuntamenti della settimana in giro per l'Italia tra festival, rassegne e proiezioni, il link per riascoltare la puntata della scorsa settimana e anche quelle del 2013 e del 2012. Idem su Facebook alla pagina Visionari, ma per comunicare con noi invece potete usare l'indirizzo visionari@ondarossa.info. A giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15.